Suonala ancora, Baldassarre. Ma che cacchio di nome t'hanno dato? Ho passato un weekend un po' banale in località colonnina del soccorso stradale. Transitava un bel viavai, 100.000 autovetture che passavano e gli astanti che guardavano e pensavano, cazzi tuoi. Verso sera di domenica sei sfrecciata pure tu, ti ho riconosciuta dalla coda dell'occhio ed è lì che io ho capito, forse tu non mi ami più. Vigliacca, vigliacca. Ma ti chiami Melchiorre o Baldassarre?